Per la prima volta andiamo in onda in diretta dallo studio Viola di Radio Onda d'Urto. Cialtroni nello spazio, puntata numero 8. 546. No, non è vero, è la puntata numero 8. È la 75. Tra poco inizieremo a tirare giù il microfono a Marco. Beh, almeno ricordaci che cos'è Cialtroni nello spazio. La trasmissione informatico-musical-culturale che il Circolo propone dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. E entro breve anche su internet saranno possibili da scaricare tutte le nostre puntate precedenti, se proprio non ci avete niente di meglio da fare. Ah, di che cosa andiamo a parlare nella puntata di oggi? Lo chiediamo ad Alessandro. Allora, oggi cercheremo di parlare di Google e di alcuni metodi per migliorare la ricerca su internet. Google sicuramente lo conoscerete tutti, è un famosissimo motore di ricerca, nonché considerato attualmente il più efficiente. Poi parleremo di file sharing e di programmi peer-to-peer, un argomento che penso possa interessare a molti. Cerchiamo di fare una carrellata su un po' tutti i vari programmi più usati attualmente sulle varie reti. In particolare cercheremo di far conoscere un BitTorrent, che è uno di questi software per il peer-to-peer, particolarmente interessante e performante. E poi, su richiesta di un ascoltatore, forse il nostro unico ascoltatore, parleremo di macOS X, incominciando a presentare la licenza sotto cui è rilasciato e la sua storia e da dove deriva, insomma. Intanto iniziamo con un gruppo musicale, che abbiamo trovato su Anyula, l'archivio di file musicali che abbiamo presentato la scorsa puntata. Allora, la band si chiama Blue Sound Traffic, è una band portoghese, fa un genere molto simile a quello dei Perfect Cycle, dei Tool, quindi nu metal. È molto interessante, ha rilasciato tutti i suoi brani su licenza Common Creative, e questo è il loro pezzo che si chiama Through Your Eyes. Yeah! Allora, iniziamo con questa puntata dedicata appunto ai temi che ci ha già ricordato Alessandro. Il primo tema di questa sera: Google, uno dei migliori amici di quelli che navigano su internet, il motore di ricerca probabilmente più famoso del mondo e sicuramente il più utilizzato. Una delle dimostrazioni che quotidianamente c'è gente che utilizza Linux, tra l'altro visto che si basa interamente su Linux. Ci sono un sacco di misteri su quale possa essere il numero di computer impiegato da Google, non c'è la cifra esatta, non è nota, si parla di migliaia e migliaia di computer e le cifre variano tra i 10 e i 100.000 computer, anche se queste possono essere probabilmente solo delle leggende metropolitane. Al di là della storia, noi vorremmo presentare qualche funzionalità avanzata di Google, in particolare quello che si ottiene attraverso il click verso ricerca avanzata nella prima pagina di Google, che è www.google.com, per chi non la conoscesse. Si possono ottenere delle possibilità notevoli rispetto alle ricerche complesse, si possono fare delle ricerche abbastanza avanzate, per esempio nella prima pagina della ricerca avanzata si possono scegliere quali parole inserire, cioè tutte le parole, oppure scegliere una frase completa da poter ricercare, una qualunque di una serie di parole, oppure anche togliere delle parole. Se questo è forse noto più o meno a tutti quelli che hanno fatto la click sulla pagina di ricerca avanzata, forse alcune delle cose che non tutti conoscono sono la semplicità di poter fare queste ricerche direttamente, restringere il campo della ricerca oppure allargarlo. Esistono dei trucchi che si possono utilizzare semplicemente digitando fin dalla prima pagina di Google nella finestra di ricerca per restringere il campo. Questi più utili probabilmente sono il campo site, che si scrive site. Si deve scrivere site due punti e poi il nome di un sito internet, ad esempio radioondadurto.org, e le parole successive che vengono digitate nella finestra vengono ricercate soltanto all'interno del sito di Radio Onda d'Urto. Oppure un altro tipo di ricerca che si può fare è sui tipi di file. Questo si ottiene digitando la parola file type, che si scrive file TYPE, due punti, e questo permette di trovare soltanto i documenti con l'estensione che viene indicata subito dopo i due punti, ovvero ad esempio se si cercano dei file audio in MP3 si può scrivere file type due punti MP3 e poi appunto il nome di un file audio, ad esempio quello che stiamo cercando può essere un'intervista. E ad esempio si può mettere per cercare sul sito di Radio Onda d'Urto un'intervista che è stata registrata con ad esempio Walden Bello, si dice probabilmente sarà contenuta all'interno del nome del file anche il nome dell'intervistato, si digita file type due punti MP3 spazio site due punti radioondadurto.org e dopodiché la parola bello e probabilmente riusciamo a ottenere quello che stavamo cercando. Altri trucchi, andiamo a vederli velocemente, si possono cercare forse cose che sono un po' meno utili, tutti i siti che linkano verso un determinato sito si ottengono digitando link due punti e il nome del sito. Quindi restando nell'esempio, link due punti radioondadurto.org ci trova tutti i siti che hanno un rimando verso il sito di Radio Onda d'Urto. E E poi altre cose forse meno utili per fare delle ricerche all'interno della memoria cache che viene archiviata da Google. Molti se ne saranno accorti che spesso quando una pagina non esiste più basta cercarla nell'archivio di pagine che vengono memorizzate da Google, e spesso la si trova. Si ottiene facendo cache, che si scrive C-A-C-H-E due punti. E poi il titolo il nome del sito internet, si trova la copia che viene archiviata da Google. Per avere maggiori dettagli sulle ricerche avanzate di Google, che possono essere per esempio molto utili per esperti di sicurezza o comunque gente che ha voglia di curiosare, esistono anche dei libri che sono a questo dedicati. Uno è il Google Hacking Database, liberamente scaricabile da internet all'indirizzo Johnny, che si scrive johny.ihackstuff.com. Per gli indirizzi eccetera ricordiamo che sul nostro sito verranno pubblicati, quindi se vi siete persi qualche H, qualche N in mezzo a questo indirizzo lo ritroverete sul nostro sito www.circolab.net. E poi sempre lo stesso autore Johnny Long ha scritto anche un libro intitolato Google Hacking for Penetration Tester, che dà dei consigli su come limitare i danni che è possibile facendo delle semplici ricerche sul proprio sito e vedere se per caso si sono lasciate delle password in giro. Vedo che Marco vuole dire qualcosa. No, niente, avevo preso il microfono in mano per non far casino. È terminata questa parte su Google, questi due consigli, quindi ricordiamo le ricerche avanzate di Google, facilmente raggiungibili, ma poi ci è possibile anche fare delle ricerche più avanzate inserendo i campi che abbiamo appena descritto, e poi lasceremo scritto comunque sul nostro sito internet anche questi dettagli. Presentiamo il secondo brano dei Blue Sound Traffic, e si chiama Moment. Il sito di Blue Sound Traffic è www.bluesoundtraffic.com, di lì trovate tutte le informazioni. Comunque la band è in giro dal 94, adesso ho pubblicato un demo per una piccola etichetta portoghese, e questo è il loro Moment. Moment, right? Now. What about trasmissione, un attimo di casino con i microfoni, e adesso prendiamo un nuovo argomento, che è appunto quello della distribuzione di materiale su internet mediante i software di peer-to-peer. Allora, che cosa vuol dire innanzitutto peer-to-peer, Alessandro? Vuol dire punto-punto, sostanzialmente. E sottintende che le comunicazioni, il trasferimento di dati che viene fatto nelle reti peer-to-peer viene fatto appunto tra un punto, da una macchina a un'altra. E quindi diciamo dalla differenza dalla distribuzione standard, ovvero che non c'è una... cioè la distribuzione avviene in modo decentralizzato, per cui io che mi connetto in internet metto a disposizione delle cose che un'altra persona che si connette in internet verrà a prendere da me, e questo diciamo senza che nessuno dei due abbia dei servizi internet aperti ufficiali come un sito web o qualcosa del genere. A quel punto l'insieme degli utenti che condividono ciascuno un po', ciascuno qualche determinati file, crea una immensa libreria di, in generale, di materiale su internet che può essere utilizzato appunto e scaricato direttamente da altre persone appunto che partecipano alla, appunto, questa rete di condivisione. Il principio è appunto quello di mettere a disposizione la propria banda, ovvero invece che basarsi su di un server web, quindi su di una pagina web dove tutti vanno a scaricare, a cui è richiesta una notevole banda per trasferire i dati, non so, di 1000-2000 connessioni, questi 2000 utenti scaricano ognuno un pezzettino del file e lo condividono, e condividono anche la loro banda in questo modo. E i metodi con cui vengono realizzate queste condivisioni sono diversi da una rete ad un'altra, e adesso faremo un po' di storia del peer-to-peer. Esatto, il peer-to-peer nasce un po' di anni fa, non mi ricordo di preciso quanti. Più o meno una decina di anni fa, una quindicina, anzi, primi inizi. Comunque, vabbè, diciamo che al grande pubblico è arrivato una decina di anni fa, attraverso Napster, famosissimo, che era sicuramente un protocollo molto rudimentale, e ha avuto una storia abbastanza travagliata, nel senso, dopo il grande successo iniziale sono subito state all'occhio le problematiche tecniche e legali legate al tipo di distribuzione che utilizzava Napster. Infatti il problema grosso è stato, allora, all'inizio Napster funzionava decisamente bene, ognuno condivideva ad esempio i propri MP3 su internet, su un sito di Napster bastava andare a fare una ricerca e si poteva in un attimo andare a scaricare le canzoni che qualcun altro stava stava condividendo dall'altra parte del mondo senza problemi. Ovviamente questa cosa ha dato subito fastidio alla distribuzione ufficiale dei file audio, che si sono lanciati come dei falchi contro appunto la ditta Napster, obbligandola immediatamente quasi a chiudere. Il protocollo di Napster, però, ovvero sia il modo con cui gli utenti condividevano questi file, è rimasto vivo, e sono nati dei progetti OpenNAP che appunto utilizzavano più server, non più quello ufficiale di Napster dove tutti si connettevano e tutti davano le liste dei loro file, ma una roba un po' più distribuita. Però questa distribuzione non ha mai preso molto, perché comunque il problema grosso delle distribuzioni di peer-to-peer, che come vedremo anche tra un attimo, è sempre il fatto che più una cosa è centralizzata, più alle varie ditte, sia italiana o MPA americana o RIA americana, cioè se una distribuzione è centralizzata, se c'è un server che è possibile bloccare con azioni legali, quel particolare protocollo di distribuzione viene bloccato in tempo zero. Quindi abbiamo, subito dopo Napster, quando ormai un po' tutti erano sconsolati, nasce il progetto GNUtella, che lo citiamo perché ha una storia simpatica. GNUtella è un software prodotto dalla Nullsoft. La Nullsoft viene acquistata proprio in quegli anni prima della pubblicazione di GNUtella, viene acquistata dalla AOL, America Online, Time Warner, che sono i produttori di tantissimi film della Warner Bros. E niente, dopo che questa appunto AOL Time Warner si compra la Nullsoft, ben decide di buttare, di pubblicare questo software che si chiama Gnutella, che è appunto un software per condividere appunto file, in rete, assolutamente decentralizzato, per cui impossibile da bloccare se non con un'azione su larghissima scala, andando a colpire singolarmente tutti gli utenti che lo utilizzano. E questa cosa ovviamente fa andare su tutte le furie America Online, che va a tirare le orecchie a quella di Nullsoft, e in pochi giorni il progetto Gnutella scompare. Però diciamo dall'idea a tutta un'altra serie di progetti di condivisione che appunto prendono l'esempio di Gnutella e vanno in altre direzioni. Ricordiamo a chi non è pratico o comunque con conoscenza del nome Nutella, che era il protocollo su cui si basava principalmente WinMX, combinato al protocollo OpenNAP. Subito dopo Nutella WinMX cominciano a nascere alcuni protocolli che si basano sempre sulla decentralizzazione, ma che cercano di migliorare l'efficienza dei trasferimenti e di ottenere il massimo dalle connessioni degli utenti che vi si collegano. Uno dei primi, che non era open source, è prodotto da Kazaa, ed è la rete Fasttrack. È un protocollo che ha avuto molto successo. Diciamo che ha visto il suo declino più che altro per varie problematiche di adware, di spyware incluse nel software, in quanto attraverso la grande diffusione di questo software i produttori di Kazaa intendevano anche veicolare e raccogliere informazioni commerciali. E dopo Kazaa non possiamo dimenticarci del protocollo eDonkey, che funziona tutt'oggi abbastanza bene, e diciamo anche questo un deciso miglioramento di tutti i protocolli precedenti, in quanto la distribuzione comincia a venire sparpagliata tra le persone, ovvero sia se io condivido un file di grosse dimensioni, lo condivido pezzettino per pezzettino verso molte persone, a questo punto queste persone condivideranno il loro pezzettino verso gli altri, in modo da frammentare il file, sparpagliarlo in rete e poi ridistribuirlo in una maniera ottimale. Quindi la grande differenza è stata appunto quella di poter condividere anche i file incompleti, cosa che la rete Fasttrack non faceva inizialmente, ha poi incluso, ma ormai già in declino. eDonkey è una delle eDonkey e Overnet o Emule, che si basano più o meno tutte sullo stesso protocollo, sono oggi delle reti molto molto vaste che hanno un gran numero di utenti. Tendenzialmente gli utenti di queste reti condividono grandi file, quindi a differenza di Napster e di tutti gli altri protocolli che abbiamo visto fino adesso, dove prevalentemente la condivisione veniva fatta con piccoli file, qui molto spesso vengono condivisi grossi file, ad esempio gli album non sono più separati in MP3 ma compressi e distribuiti come file zip completi, e quindi è cambiato anche un attimino il tipo di utilizzo che ne fanno gli utenti di queste reti. Altre reti invece più recenti, arrivata alla ribalta negli ultimi anni, una particolarmente famosa perché molto facile da usare è DC++, che è un sotto licenza GPL, ha un metodo molto particolare di utilizzo molto simile alle vecchie BBS. Ci possono impostare delle politiche d'accesso per cui chi crea l'hub, cioè è una sorta di stanza simile a quella delle chat, dove praticamente gli utenti che entrano in questa stanza mettono a disposizione degli altri utenti sempre nella stessa stanza i loro file, attraverso collegamenti si possono scorrere le cartelle di chi condivide. Quindi è estremamente ordinato, anche ordinato e facile da usare. È un po' invasivo, nel senso che comunque dà moltissime informazioni distribuite in rete della vostra macchina. Quindi quando voi condividete file attraverso il C++, date di voi tutta una serie di informazioni che riguardano ad esempio il nome delle vostre cartelle, anche la parte non condivisa. Quindi se avete la cartella dentro i vostri documenti, ci sarà c:// document and setting, il vostro nome, i vostri documenti, eccetera eccetera, il nome della vostra macchina. Quindi diciamo che non è una rete consigliabile se volete mantenere un minimo di privacy. Altre reti particolarmente efficienti, anzi direi che a tutt'oggi è la rete più efficiente, anche se non è nata esattamente per il file sharing, è BitTorrent, di cui Marco è fanatico. E beh, BitTorrent ha, diciamo, è l'ultima novità appunto in fatto di peer-to-peer. Ha ottimizzato quello che aveva già iniziato i vari protocolli come Donkey, appunto ottimizzando la questione dello sparpagliare il file in giro per la rete e dopo averlo sparpagliato di obbligare tutti coloro che si sono presi un pezzettino del file a quel punto di condividerlo. La grande differenza sta nella dimensione del file, che il protocollo di BitTorrent, comunque questa tipologia di programma, lavora con dei pezzettini molto molto piccoli, per cui chiunque, anche dopo pochissimi secondi di download, rende già disponibile le parti che ha scaricato, e questo rende il protocollo molto molto efficiente. Uno dei suoi difetti però è il fatto di non avere un vero e proprio motore di ricerca come si è abituati tradizionalmente con i programmi di file sharing. Infatti BitTorrent nasce con tutta un'altra ottica in testa, che era quella di distribuire le immagini ISO delle distribuzioni di Linux, che sono file liberamente o altri file molto grandi. Esatto, però diciamo non nasce con l'idea di essere utilizzato per appunto per il file sharing di materiale illegale, e questa cosa probabilmente lo ha da sempre salvato, in quanto nonostante sia un protocollo utilizzatissimo per il materiale illegale, è molto utilizzato anche per il trasferimento di materiale legale. E Stando anche alle parole dello stesso sviluppatore, BitTorrent era nato come un'evoluzione dell'HTTP o comunque dei protocolli di trasferimento file in rete, come un nuovo protocollo per trasferire file che ormai continuano ad essere sempre più grandi e richiedono sempre più connettività di rete. Sì, da un'analisi di un istituto inglese di analisi Cosa analizza? E analizza, diciamo, il traffico internet, e questi della Cache Logic stimano che il traffico internet al momento utilizzato da BitTorrent sia circa il 35% del traffico internet totale. Quindi si parla di più di un terzo del traffico internet, quindi diciamo una fetta decisamente grossa dei dati su internet viaggiano attraverso questo protocollo. Però non essendo così facile, come si fa ad esempio a utilizzarlo per qualcuno che cercasse un file su BitTorrent? C'è qualche consiglio che ci puoi dare? Allora, esistono dei siti apposta che catalogano appunto questi torrent. E come funziona la distribuzione su torrent? La distribuzione su torrent avviene diversamente dagli altri sistemi di peer-to-peer appunto, con in questo modo: una persona si deve scaricare da internet un file con estensione .torrent che contiene al suo interno le informazioni di colui che sta tenendo la lista della gente che è collegata al momento a trasferire quel file. Quindi si tira giù questo filettino .torrent da pochi K e poi lo si dà in pasto a un client di BitTorrent, ad esempio sotto Windows è famoso Azareus. Sotto Linux ce ne sono 40.000, da BT Download a Qt. Comunque se andate torrent, su www.sf.net, tra le cose più scaricate troverete appunto Emule di C++ e Azureus. I primi tre sono questi, quindi non c'è pericolo di sbagliare. Diciamo, una volta che abbiamo scaricato questo programmino, per esempio Azereus, e dopodiché abbiamo questo filettino .torrent, diamo in pasto il .torrent a Azereus e questo parte senza neanche chiederci nulla sulla nostra configurazione di rete, e in breve comincia a scaricare il file che appunto stiamo cercando a una velocità che... Vabbè, se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di avere internet a banda larga o cose del genere, vabbè, quello viene giù a banda piena, per cui si arriva al paradosso che più il file è distribuito in giro, quindi più gente ce l'ha, più il file viene giù velocemente, per cui a volte si raggiungono delle velocità assolutamente incredibili di scaricamento. E abbandoniamo l'argomento peer-to-peer, che magari riprenderemo un'altra volta. Per quanto riguarda gli aspetti legali, magari faremo un approfondimento. E anche gli aspetti tecnologici. Vabbè, e riprendiamo, dato che avevamo promesso prima di citare qualcosa relativamente a macOS X, ne parliamo subito adesso. Allora, macOS X che cos'è? macOS X è il sistema operativo della Apple. La Apple è un'azienda americana che produce hardware e il software associato. Storica azienda americana che ha avuto una storia molto particolare durante gli anni 80. Ne parleremo magari una volta, è molto simpatica la storia della Apple. Va bene, e diciamo che cos'è il suo ultimo prodotto macOS X. macOS X è una... di base è un sistema Unix. Un sistema Unix, in particolare un BSD. Un BSD, tra un attimo diremo vabbè che cos'è, e su questo BSD, che si chiama Darwin o Open Darwin, non sono sicuro, Darwin. E c'è appunto stata messa una interfaccia grafica tutta fichissima con le finestre che saltano, volano da tutte le parti, una cosa incredibile che poi ogni tanto si schianta, però vabbè, quella è un'altra questione. E allora, una questione, due o tre parole relativamente alla licenza di macOS X. macOS X, come ho detto prima, è un sistema Unix BSD. Questo significa che la sua licenza permette a chiunque di prendere i sorgenti di BSD, di modificarli e poi, una volta che i sorgenti sono modificati, di farne quello che si vuole. Tradotto in termini che potrebbero sembrare simpatici, ma in realtà sono molto simili alla realtà: se il sorgente di un programma, ovvero sia le istruzioni che il programma deve eseguire, a questo punto il sorgente di un programma lo possiamo paragonare alla ricetta per fare una torta. Io pubblico la mia ricetta con prendi un chilo di farina, prendi un uovo, mescola l'uovo, butta la farina dentro l'uovo e ok, non so fare le torte, come avrete intuito. E questa ricetta è l'equivalente del sorgente che ci permette di creare un software. La licenza BSD cosa dice? Tu puoi prendere il software BSD, prendere la ricetta, modificarla e a quel punto vendere le torte senza redistribuire la ricetta modificata che hai utilizzato per fare le nuove torte. Quindi BSD permette appunto di prendere la licenza, prendere il i sorgenti di BSD, ricompilarli, farne delle modifiche, in questo caso fatto da macOS X, buttandoci sopra un'altra interfaccia grafica, cambiando un po' di roba in giro, e a quel punto di vendere questo prodotto come se fosse stato loro, diciamo. E questo è diverso dalla GPL che avevamo introdotto nelle prime puntate, che invece, mentre invece appunto la GPL ha la clausola che obbliga la redistribuzione oltre della torta, anche della ricetta della torta appunto modificata. Sì, si è fatto uso di sorgenti già sotto licenza di GPL. Chiudiamo qui la trasmissione. Perché tra un po' ci cacciano fuori, suona l'allarme. Suona l'allarme, esatto. Sì, non vogliamo svegliare tutto il condominio. Ci hanno già telefonato anche dei compagni e delle compagne per ricordarci questa cosa, che sentendoci in diretta per la prima volta di notte, cioè Cialtroni nello spazio, che andrà comunque in replica nel solito spazio delle 13:15 del mercoledì. Ricordiamo che è cambiato l'orario. Io darei il via alla sigla e un appuntamento arrivederci, a risentirci alla prossima puntata, se non avete niente da aggiungere al volo, così proprio niente, secondo. Ricordiamo magari il sito internet www.circola.net oppure www.radioondadurto.org. Buona serata, buona giornata, ciao insomma.